Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Buongiorno, iniziamo la settimana con una buona notizia per chi ha i valori della pressione normali ma un po' altini, insomma in quella sorta di zona grigia, in un'anticamera dell'ipertensione che viene chiamata anche preipertensione. C'è un documento di consenso della Società Europea dell'Ipertensione che ci dà delle indicazioni utili. Ne parliamo oggi con una coppia di esperti che abbiamo già in linea con noi, il professor Claudio Borghi, che torna a trovarci, ordinario di medicina interna all'Università di Bologna. Professore, buongiorno. Buongiorno a voi, è sempre un grande piacere. Anche da parte nostra, e si aggiunge al professor Borghi il professor Arrigo Cicero, presidente della Società Italiana di Nutraceutica. Professore, finalmente. Va bene, allora... Professor Borghi, che cosa dice questo documento di consenso della Società Europea dell'Ipertensione? Questo documento dice molte cose importanti. La prima dice che c'è sicuramente una fetta di pazienti che si collocano tra i valori di pressione normale e i valori di pressione alta che non possono essere ignorati. La seconda dice che questi pazienti hanno comunque un loro rischio cardiovascolare che naturalmente deve essere preso in considerazione. La terza dice che a questi pazienti non si possono applicare le medesime regole che si utilizzano per il trattamento dell'ipertensione perché non hanno valori così elevati. E il quarto punto, forse quello più importante per i nostri ascoltatori, ma per noi in generale, che esiste oggi una soluzione sicuramente di derivazione naturale che permette di ottenere una riduzione dei valori di pressione modestamente aumentati, con tutti i vantaggi che conseguentemente ne derivano, quindi essere liberi da farmaci ma al tempo stesso migliorare il controllo della propria pressione. Perché questa condizione di preipertensione deve essere tenuta sotto controllo. Assolutamente, ci sono molti studi, questo è il motivo per cui la Società Europea dell'Ipertensione, che è un organismo importante da questo punto di vista, si è interessato di questo problema. Il valore di pressione superiore al 130-80, quindi quello che si colloca fra 130-80 e 140-90, che viene definito pressione normale alta o preipertensione, a seconda che ci si trovi da un lato o all'altro dell'Oceano Atlantico, è una condizione associata a un aumento significativo del rischio. E poiché molti di questi pazienti o di questi soggetti sono presenti nella popolazione, anche se in termini assoluti il loro rischio è inferiore rispetto a quello della popolazione ipertesa, in termini numerici contribuiscono in maniera piuttosto rilevante al numero di complicanze che noi vediamo nei nostri ospedali. Quindi è certamente una popolazione meritevole di essere presa in considerazione. Professor Cicero, e adesso è possibile tenere sotto controllo la preipertensione con delle sostanze di derivazione naturale? Sì, certo. Ci sono diverse sostanze di origine naturale che oggi ci possono aiutare a migliorare, ottimizzare il controllo pressorio proprio in questi soggetti a cui faceva riferimento il professor Borghi. Ovviamente sempre nel contesto di un'adeguata attenzione allo stile di vita, di conseguenza nulla potrà essere mai sostitutivo di una dieta equilibrata, dell'attività fisica, della sospensione del fumo, quelle cose che diciamo praticamente sempre, che non sempre purtroppo vengono ascoltate in maniera adeguata, però abbiamo diverse sostanze di origine nutrizionale e di origine vegetale, quindi più simili a dei fitoterapici se vogliamo, che hanno dimostrato in numerosi studi clinici di contribuire a una piccola riduzione ma significativa della pressione, quella piccola differenza che ci serve per riportarci ad uno standard di normalità. Quindi professore, ci sono delle sostanze che noi troviamo anche nei cibi? Sì, ci sono alcune sostanze che volendo si possono trovare anche nei cibi, basta pensare banalmente ai sali di magnesio e di potassio di cui sono ricchi praticamente tutti i vegetali. Il problema è riuscire in questa maniera ad assumere un quantitativo fisso e sufficiente per ottenere una riduzione dei valori pressori, cosa che non è sempre facile con la sola alimentazione corretta. Da lì nasce eventualmente la possibilità di integrarli in qualche modo. Ma quali sono le sostanze che hanno dimostrato di avere una maggiore efficacia tra quelle utilizzate e studiate? Allora, ce ne sono sicuramente diverse. Alcune sono di particolare interesse scientifico e divulgativo, ma molto care da poter usare nella pratica clinica, come per esempio gli antiossidanti del cacao, che sono molto molto efficaci, ma il prodotto purificato che riduce la pressione è anche abbastanza caro, per cui diciamo poco utilizzabile. Ci sono estratti per esempio della barbabietola rossa, che è un tubero molto utilizzato anche sotto forma di succo nei paesi anglosassoni. Ci aveva raccontato infatti le virtù della barbabietola rossa il professor Borghi. Esatto. Professore, mi ricordo bene, vero? Sì, sì, certamente, certamente. È un pezzo forte di questa trattazione. Quindi dopo la barbabietola rossa, che è un po' una nostra vecchia conoscenza, che cosa mi dà di nuovo, professor Cicero? Allora, ci sono alcune sostanze diciamo storicamente studiate, come per esempio gli estratti di biancospino, che hanno diverse azioni, che vanno anche oltre ad una un'azione antipertensiva diretta per un effetto diciamo renale fra virgolette, hanno anche un'azione sedativa, per cui oggettivamente anche chi ha dei rialzi pressori su una base un po' tensiva può averne un qualche vantaggio. Ci sono sostanze naturali ad azione prevalentemente diuretica, come per esempio l'orto sifon, che è sempre stato utilizzato anche tradizionalmente nelle tisane con finalità di facilitare l'eliminazione di acqua in eccesso. Sì, un po' detox. L'organismo. Un po' detox, non mi piace. Non lo so che non le piace, però noi la, sì, neanche a me piace, no, però questa parolina che non piace a nessuno, poi la usano tutti e fa capire le cose. E un'altra potrebbe essere il carcadè, ovvero l'estratto di ibisco, che anche questo ha un'azione antiossidante molto forte, una grande capacità di riduzione dei livelli pressori. Professor Borghi, quindi passando dalla teoria alla pratica, che cosa faccio? Passando dalla teoria alla pratica ci sono due aspetti secondo me che devono essere precisati. Il primo è che tutto ciò che si trova su questo documento di consenso al quale lei fa riferimento è documentato da studi condotti in maniera corretta, che è il punto fondamentale. Noi abbiamo incluso un comitato scientifico che ha valutato solo gli studi che hanno prodotto risultati sulla base delle stesse metodiche scientifiche con le quali si studiano i farmaci, depurando quindi da tutta l'aneddotica dei cosiddetti social media che apparentemente dimostrano che qualsiasi cosa produce un effetto favorevole. Qui c'è soltanto quello che realmente funziona. Secondo, abbiamo la certezza assoluta che anche se le riduzioni della pressione sembrano minimali, 2, 3, 4, 5 mm di mercurio, e in termini assoluti potrebbero essere considerate trascurabili, dobbiamo ricordare che l'epidemiologia dice che 2 mm di mercurio della pressione riducono di circa il 15% l'incidenza di ictus e circa il 10% l'incidenza di infarto miocardico, quindi non disdegniamo l'effetto di queste sostanze sulla pressione. Fondamentalmente dobbiamo cercare di, se noi ci troviamo in una di queste condizioni, o di integrare la nostra dieta con qualcuno di questi cibi funzionali che ha sottolineato, che ha indicato il professor Cicero, naturalmente tenendo conto che siano integrati con una dieta adeguata. Non possiamo mangiarci mezzo chilo di cioccolato al giorno semplicemente perché i polifenoli del cacao possono voglio abbassare un po' la pressione, un vantaggio certamente. E l'altro aspetto sostanziale è eventualmente integrare la nostra dieta, la nostra vita con qualcuno di questi prodotti nelle forme farmaceutiche che vengono proposte, che sono estremamente graditi di solito dai pazienti, al punto tale che lei sa che noi con i farmaci antipertensivi abbiamo un grosso problema con l'aderenza terapeutica. La natura, diciamo, di derivazione naturalistica, spieghi il gioco di parole, di queste sostanze fa sì che coloro i quali assumono prodotti di derivazione naturale abbiano nei loro confronti un'aderenza e un'affezione molto superiore rispetto a quella dei farmaci. Quindi c'è modo di trasformare questo nuovo approccio al controllo della pressione in un ampio beneficio per il paziente e per la popolazione. Ma queste sostanze sono utili, potrebbero essere utili anche alle persone che sono già in terapia, assumono farmaci per il controllo della pressione, sì, e quindi quasi un effetto coadiuvante? Certo, il problema è che la loro giustificazione è basata dall'esistenza di una popolazione che non ha alternative terapeutiche. Sì. Se ci spostiamo invece nell'ambito dei pazienti ipertensi, cioè quelli per intenderci che hanno un'indicazione raccomandata per l'uso di farmaci, è chiaro che in quel caso l'uso di nutraceutici con un'azione antipertensiva può rappresentare un'eccellente integrazione all'effetto del farmaco, per cui invece che raddoppiare una dose di farmaco quando sono molto vicino al target, posso pensare di integrare contemporaneamente l'effetto della terapia farmacologica con un prodotto nutraceutico, ottenendo lo stesso risultato e con naturalmente una probabilità enormemente inferiore di effetti indesiderati, quindi aggiungendo in qualche modo il naturale al farmaceutico. Professor Cicero, a lei l'onore di chiudere questa nostra chiacchierata con un'indicazione pratica. Allora, l'indicazione pratica vuole essere in questo contesto a chiusura, e l'idea che se ci si approccia a un trattamento di tipo nutraceutico per l'ottimizzazione dei valori pressori, ribadisco il concetto già ribadito anche al professor Borghi, sempre nell'ambito di una buona conduzione generale del proprio stile di vita, lo si dovrebbe fare dietro consiglio di un farmacista o di un medico, con l'idea che comunque questi trattamenti non possano essere fatti né spot, quindi non tipo 2 o 3 giorni ogni tanto perché oggi mi sento la pressione un po' alta, ma devono essere fatti su periodi medio lunghi, e la seconda cosa affidandosi sempre a prodotti che possano avere una certificazione di qualità, perché sul mercato si trova tutto. Grazie al professor Borghi, grazie al professor Cicero, a Carmelo, a Lauricella in regia, alla parte tecnica, Laura Vanossi in redazione. Noi ci sentiamo dopo il GR delle 12 per le notizie che arrivano dal mondo della ricerca. Buona giornata da Nicoletta.